Vincent, a sociale mixtape, gruppo beat dittatore, se stanzetta crew, se. In un segua, modulo cappellina, bocchini scrive kill, cavio mi faccio croce ogni mattina, passo oltre views. Super sticcosa, roba mi passi confina, va oltre primo posto. Ma sempre fisso un obiettivo, scavalca te pregiudizi, ha già provato 4 anni fa, senza non sfacci miei vizi. Non mi trovo il logo di mezza, ci manchi com'è stata. Dopo anni di rime, cocco una mano tata. Sono chiuso in una stanza, tristezza mi ha pigliato. Metto un beat devastando, grigio se fa colorata. In un attimo scrive, mi sente già un amore. Che hanno un coppo fogli, ci mette l'inghiostro rindo cuore. Si piega che a Napoli, si poppa ma manca la fitta. Non mi grida frate a me, mo tu spiega un coppo beat. Famiglia condannata, non c'è sta una cazza lira. Piglio fiera, se leva miezza, rinda nu, scatta lira. Stata buona accorto, a Roma e te piera. Non so sapa che fine fai, e non fatta giornaliera. Esistanzetta prod, facite ciò bucchina. Simma pronta a te scassare, sino morta che cammina. Vince un coppo mic, stanzetta produzione. Tatora un coppo beat, mo cerchi ispirazione. So cresciuto in un ambiente cattivo e malfamato. Mezza gente cana, senza ragionare. Ottomazzata, Vincent Coppo Mic, stanzetta produzione, tatore un coppo beat, voce di ispirazione, sono cresciuto in un ambiente cattivo e malfamato, in mezza gente che senza ragionare, ottomazzata. Vincent, tu pensi che è fornuto, eh? No, ascolta. A volte giuro desiderato essere morto, quando tutto sembrava finito. Sono risorto, mi stavo tan soddisfatti, io e me fra stavamo fatti per sopportare gli sbatti. Una sera come tante, insieme agli altri, in cui cerco qualcosa per dimenticarti, vado a terra senza forze. Sogno ma la testa tra due morse, pieno di forze. Mi sveglio e mi rialzo ed è tutto uguale, tutto come prima, niente di speciale. Qui tutto va male, tutto storto, ma l'apparenza è tutto normale. Mi hanno preso per il culo, sono servito al loro scopo. Aspetto un po' di tempo, la vendetta la servo dopo. All'apparenza vi sembra tutto perfetto, ma non ti aspettare il mio rispetto. No, ma piccinato blando e canta contro i scemi cuozza. Casanna sulla roccoanda, se mette ne canta nu Mario, solo convinta Casanna sulla mente allora. Vince un coppo mic, stanzetta produzione, datore un coppo beat, mo cerchi ispirazione, so cresciuto in un ambiente cattivo e malfamato, mezza gente che senza ragionare ottomazzata. Vince un coppo mic, stanzetta produzione, datore un coppo beat, mo cerchi ispirazione, so cresciuto in un ambiente cattivo e malfamato, mezza gente che senza ragionare ottomazzata.